Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buona domenica. Pronto, pronto, piccina. Ma stasera. Ti senti però? Questa, sì, cosa, sì. Ti senti. Okay. Perché? No, perché pronto, chi è? No, mi ho inventato una canzone di mio papà, ma di quando papà aveva 17 anni. Ah, ma va? Come fa? Adesso mi metti in crisi. Prima mi era venuta spontanea. Pronto, piccina, stasera che fai? Mi sembra, adesso. Hai capito. Allora, noi abbiamo iniziato due domeniche fa a fare questi 10 punti importanti legati alla relazione col cane. Abbiamo già parlato del primo punto, che era: abbandona velocemente l'idea di essere un capo, e Angelo ci aveva spiegato perché. Il secondo punto era: lasciali abitare casa tua, non solo il giardino, e tu ci avevi spiegato benissimo, poi avevamo fatto anche altre puntate benissimo. E il terzo punto, di cui ci parlerà oggi il nostro dottor Angelo Vaiva, è: approfitta di ogni occasione per renderlo partecipe della tua vita. Sì. Allora, chiariamo che questi 10 punti mi li chiedono sempre, cioè mi dicono sempre: ma questa roba qua dovrebbe diventare un vademecum, ed effettivamente, insomma, era venuto fuori sulla copertina del mio primo libro, è interessante. Quindi tante volte mi dicono: ma me li rispieghi, mi dici questa cosa qua, certo, mi fai gli altri video. E vabbè, ok, parliamone in radio, no? Anche perché ci sono dei paralleli utili anche per noi. Sì, infatti. Allora, questo terzo punto è riferito al secondo capitolo del libro, che si chiama Vivere il cane. Mm-hmm. Vivere il cane significa non che te adotti un cane e te lo metti in giardino e lo lasci là, oppure lo lasci in casa e non gli fai fare nulla. Come abbiamo spiegato diverse volte. Allora, quello che bisogna fare è cogliere appunto ogni occasione per fargli vivere la tua vita, no? Portarlo con te, per esempio, quando tu vai al bar, portarlo con te quando vai a fare la spesa, anche quando se vai a fare pipì. C'è tanti cani, anche se non vuoi, si infilano. No, i miei li seguono ovunque, quindi. Ecco, però non si tratta tanto di quello. Cioè, la cosa chiave di vivere il cane, perché è importante fare questa cosa qua, non è soltanto per cogliere il momento per stare insieme al cane, già che l'hai adottato. Il punto è che questo modo di fare educa la mente del cane ad essere flessibile. Cioè, quante volte noi sentiamo parlare di educazione del cane e la confondiamo con l'obbedienza, no? Ah, certo. Cioè, educazione, certo, per la maggior parte delle persone è seduto, vieni, terra, è resta. Eseguire degli ordini. Ora, ci sta anche che uno insegni al cane a tornare al richiamo e ad aspettare lì o a fermarsi, perché questo può essere utile, non nella vita di tutti i giorni. Ma non dobbiamo dimenticare che educazione significa exducere, cioè tirar fuori che cosa? Il potenziale del cane. Allora, è molto più importante che i cani facciano esperienza ed esperienze diverse, perché diventino più intelligenti, più adattabili, perché capiscano il contesto nel quale si trovano, piuttosto che insegnargli seduto, terra, resta e via dicendo. Cioè, se tu mi prendi un cane che ha fatto un corso di obbedienza e quindi sa seduto, resta, piede, condotta, richiamo e via dicendo, però me lo tieni in un box, come spesso accade, certo, o in un kennel, capito, un trasportino, e lo tiri fuori soltanto per fare quelle cose, anche per fare obedience, eccetera, il suo cervello sarà più povero rispetto ad un cane che invece queste cose non le ha fatte e che però segue il suo proprietario ovunque. Questo è uno dei motivi anche per i quali, quando vedi in mezzo alla strada i closciari, i barboni, bravissima, con i propri cani sono pacifici, passa davanti un cane e non si scompone. Ecco, la maggior parte o i punk a bestia, no? Che tengono i cani così allo stato brado. Allora, questi sono stati degli indizi, io lo spiego anche nel libro. Io, per esempio, parlo della mia esperienza con i randaggi in Puglia, con i cani che avevo visto sull'isola di Porto Santo, no? Erano cani completamente liberi che viaggiavano per l'isola ed erano estremamente adattabili, molto intelligenti, sapevano esattamente che cosa fare in ogni situazione senza che nessuno gliel'avesse spiegato. E mi ricordo molto bene di un accadimento che avvenne a Bologna. Ero lì per lavoro in uno dei porti, sotto i portici di Bologna, e è uscita una signora col suo cagnolino al guinzaglio, che si è messo ad abbaiare verso un pitbull tenuto libero da due ragazzi che vivevano per strada, no? Il pitbull ha fatto una bellissima curva da manuale dei segnali calmanti, mentre il cagnolino, tenuto lì perfettamente via dicendo, si era scagliato contro di lui. Il più competente a livello sociale era il pitbull. Perché? Perché faceva più esperienza. Quindi quello che vorrei che le persone che ci stanno ascoltando capissero è che la quantità di esperienza che fa un cane, invece di essere chiuso in giardino, in casa, di fare soltanto l'obbedienza, è molto importante per il fatto che questo cane diventi intelligente, come quei cani dei pensionati che se ne vanno in giro per il paese, vanno al bar, dal barbiere, a volte li vanno pure a prendere il giornale e non hanno mai fatto un corso di obbedienza. Ora provate a far finta di che Angelo non abbia parlato di cani e provate a riascoltarvi magari nei podcast di Radio24.it quello che ha esattamente detto, che ha detto fino adesso, e cambiate la parola cane con la parola, per esempio, figlio. Ecco, per esempio, vale infatti la stessa identica cosa, cioè i bambini che sono tenuti troppo protetti, chiusi in casa, senza dargli la possibilità di fare esperienze. No, anche quei genitori ossessionati dai compiti e dai voti a scuola. Sì, non si rendono, che non li mandano in gita con i propri compagni, vale esattamente la stessa cosa. Cioè, per un bambino è molto più importante giocare con gli altri bambini, è molto più educativo questo. E, oppure farlo partecipare della nostra vita, portarcelo insieme, per esempio, quando abbiamo occasioni di lavoro, impara molto di più. In qualunque situazione, con qualunque rumore. Sì, il suo cervello diventa molto più duttile, più adattabile, più fertile, cioè ha una forma mentis migliore rispetto invece al bambino che è sempre a casa e deve fare i compiti. Cioè, quello saprà più cose, sarà ecco, più... Ecco, siccome io non facevo mai compiti, infatti sono stata bocciata due volte, per quello io ho appreso tanto, adesso sono così intelligente, perché giocavo in continuazione. Esatto, per me sei più l'eccezione che conferma la regola, in realtà, quindi... No, dobbiamo pensare a quello. No, scusa, pensa a tutti... io ho fatto esattamente quello che hai detto tu, giocavo, non studiavo, prendevo... Ma non è che non devi studiare, adesso non è che dobbiamo lanciare il messaggio che bisogna avere brutti voti a scuola, scusa... Visto? Partito l'applauso delle Ma era partito a me l'applauso! Ma non lo so! È partito a me, ora stai zitto che ci abbiamo un break. Va come comanda. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Ed è il caso proprio di dirlo, chiedimi Buongiorno. Se sono felice, perché io ho trovato sul sito di lifegate.it, che a me piace molto, un articolo che mi è piaciuto da morire. Sì, ne abbiamo parlato in qualche puntata scorsa, ci siamo ripromessi. Di assolutamente sì, perché abbiamo scoperto questo Porci Comodi, scritto con Porci e Comodi con la K, che è questo santuario di Magnago, che è praticamente Magnago a due passi da Milano, che offre una seconda vita ad animali salvati dai macelli sequestrati e consente anche visitatori di sperimentare in prima persona l'empatia, questa parola empatia che è diventata di moda negli fortuna, ultimi tempi. Per sempre più spesso la si... La cosa bella è che appunto animali che venivano prima allevati, che venivano considerati animali da reddito, no? Quindi allevati solamente per uno scopo utilitaristico, per carne, latte, lana, pelle, quindi con un'esistenza già segnata fin dalla nascita e con un destino tremendo, sfruttati fino alla morte. Amore, però non dire tutto tu, che sennò... Aspetta un attimo, ho capito, l'abbiamo già detto l'altra volta. La gente bisogna ricordare le cose. Invece introduciamo il nostro ospite. Allora, che... difatti, volevo dire, a questo tipo di animali in questo santuario di Porci Comodi hanno la possibilità di vivere una vita paradisiaca. E finalmente siamo riusciti a contattare la persona che appunto si occupa di la responsabile di vita da cani, che era già si occupava di cani, poi si sono detti ma perché gli altri animali li dobbiamo escludere? Ciao Sara! Esatto, siamo in linea con Sara D'Angelo. Ciao Sara! Ciao, buongiorno, grazie. Allora io sono talmente emozionata che parlerei di questa roba per ore, perché adoro questa iniziativa che avete fatto voi e sono felicissima di poterne parlare. Intanto volevo capire com'è nato Porci Comodi. Guarda, allora, innanzitutto Porci Comodi, ancora prima di essere una struttura, quindi un luogo di accoglienza, era un progetto, ovvero già da prima di avere il posto a Magnago, noi comunque ci occupavamo di salvare animali, quando era possibile, dall'industria della carne e dal macello. Sempre di più negli anni sono aumentati i sequestri anche per ragioni di maltrattamento, quindi sequestri penali di questi animali, perché... per quanto si pensi che ci siano leggi che tutelano il benessere degli animali da reddito, di fatto l'unica verità è che il benessere per questi animali non esiste. Quindi molto spesso, quando vengono attivati i controlli nel modo corretto, si va ad aprire una sorta di breccia in questo muro di silenzio che rende possibile lo sterminato sfruttamento degli animali. Senti, ma come una volta che avete fatto questo salto in avanti, realizzando poi quello che era questo Porci Comodi, come avete fatto a trovare? Perché uno dice, mannaggia, anch'io c'ho un progetto, ma magari uno non sa da che parte incominciare poi a realizzarlo un progetto, per esempio trovando lo spazio adatto. Certo. Guarda, è proprio... noi seguiamo e facciamo formazione ad attivisti e a persone che vogliono o interessarsi e venire a partecipare all'attività del santuario, quindi conoscere più da vicino la gestione di questi animali, e anche chi vuole eventualmente, perché ha uno spazio, perché ha voglia di farlo, aprire una struttura di accoglienza per animali exodarettico. Bello, perché... quindi facciamo proprio degli stage a Magnago l'estate, è molto bello, e ci sono sia le ore sono sia ripartite nell'attività pratica di osservazione anche etologica degli animali, di parte veterinaria, parte etologica e quant'altro, e poi c'è tutto il contesto legislativo, perché anche questo è molto importante, e poi come si può iniziare ad attivare una struttura di questo tipo. Eh sì, perché la cosa bella sarebbe che in tutta Italia nascessero dei porci comodi, prendendo esempio, potreste essere una startup. Senti, da dove vengono gli animali che avete voi? Allora, un po' da tutti i posti, ci sono animali provenienti da concentramenti abusivi e quindi neanche da sequestri, magari diciamo le autorità sul posto preferiscono non attivare un sequestro vero e proprio, ma risolvere la situazione, perché altrimenti gli animali magari farebbero una brutta fine, perché non sono ancora tutti identificati e quant'altro. E quindi ci sono sequestri penali, ci sono cessioni da privati, perché ci sono anche privati che a un certo punto decidono, o perché falliscono, perché non vogliono più fare quel mestiere, cedono gli animali ad associazioni come la nostra. Ovviamente da animali da reddito diventano il contrario, animali da debito, perché da noi si riposano, ma è per questo che si chiama il rifugio Porci Comodi, e si sperimenta una sorta di economia al contrario, cioè questi animali che in secoli di domesticazione hanno dovuto sempre lavorare per l'uomo, si riposano e siamo noi a lavorare per loro. Eh sì, ho letto che tu giustamente proprio per questo motivo, se c'è chi non si vuole avvicinare all'uomo, lasciate libero di non avvicinarsi, chi invece si fida di più. Sovversione. Senti, ma come fate a mantenerli allora questi animali? Se voi lavorate per loro, questi fanno infatti i porci comodi, cioè com'è chi, che vi sostenete? Paga? Molto difficile, ovviamente immaginate che già è complicato per una onlus che si occupa di animali in generale, e tirare a campare e mantenere tutti. Però per esempio per i cani ci sono, anche se poco finanziate, ma delle leggi dello Stato che comunque ti erogano anche un quid piccolo, che non è mai sufficiente, ma c'è una base. Per animali che nella quotidianità così tanto distrattamente noi consideriamo oggetti o meno di un oggetto, proprio cose di pochissimo conto, non esistono leggi che ti possono permettere di accedere a un finanziamento, a un contributo, quindi completamente a carico nostro. Per cui una onlus che gestisce un santuario deve ovviamente organizzare eventi di raccolta fondi, campagne. Noi attualmente, se guardate sul sito www.vitadacani.org, abbiamo attiva per tutto l'anno la campagna Adotta una balla, e quindi ogni cittadino, ogni persona che si avvicina a noi, conosce i nostri animali, può poi andare nel sito e decidere, cliccando sulla balla di fieno, di regalarci una balla di fieno e di riempire con noi il fienile per tutto l'anno, perché uno dice ma quanto costerà un po' di erba? Certo. In realtà una balla di fieno costa, se va bene, 55 euro a balla, quindi una balla da 350-400 kg. Tenete conto che poi noi più o meno ne consumiamo un 22-25 al mese, più tutti i mangimi degli altri animali. Certo. Insomma, anche se erba costa tanto. Quindi... Beh, sai cosa sarebbe bello mentre sta parlando lei? Sì. Che scomparissero i canili così come sono stati pensati e nascessero questi santuari dove il cane abbandonato e tutto quanto trovasse questa realtà, per poi eventualmente, se qualcuno vuole adottare, cani comodi. Sì, sarebbe bello così. Guarda, noi a Magnago, a latere del santuario, abbiamo anche 130 cani, quindi vedi? Praticamente è proprio, diciamo, una comunità interspecifica, quindi è molto simpatico. Senti, chi viene a visitare i cani poi si avvicina agli altri animali o viceversa. Io ho letto che oltretutto voi avete una sorta di lista d'attesa, perché giustamente voi fate attenzione al fatto che non ci sia un sovrappopolamento, no? Un sovraffollamento, come dovrebbe essere anche per noi esseri umani civili, perché voglio dire, poi sennò la vita diventa... Ovviamente... Però purtroppo tieni conto che essendoci poche strutture come la nostra, devi sempre cercare in qualche modo di calibrare quanto spazio hai e quante risorse hai, perché anche tanti animali, ogni maiale a noi costa 50 euro al mese, ogni capra, pecora 30 euro al mese, solo di cibo, i bovini e gli equini costano 150 euro al mese, insomma ovviamente quando poi arrivi ad avere 350 e 200 animali grandi diventa davvero impegnativo, quindi c'è una questione di limitazione dei posti sia per le risorse economiche, però se le persone ci aiutano noi facciamo meno fatica, sia per una questione proprio di spazio. L'obiettivo del santuario non è solo accogliere e salvare vite, quello è fondamentale, ma ancora di più comunicare come dovrebbe essere la vita di questi animali, e quasi mai è, questa è la cosa perché... ancora più importante. Allora, la cosa che io, fra le cose che io ho colto di questa iniziativa, è che se una persona ha a che fare col maiale soltanto quando mangia il prosciutto, esatto, o quando vede la pubblicità del prosciutto, perché vede dei maiali che fanno una vita, cioè vede il maiale, sì, cioè, okay, che non è quella che fanno, che non è quella che prima realmente succede ai maiali prima di essere macellati, esatto. Ma poi uno non immagina neanche che cosa sia l'etologia di quella, qual è il comportamento, come... invece se viene da voi vede come il maiale interagisce con gli altri animali, con le persone. Poi voglio ricordare che ci sono delle ricerche molto ampie sulla cognizione dei maiali, che hanno delle facoltà cognitive piuttosto elevate, anche superiori per alcuni versi a quelle dei nostri cani. Assolutamente, diciamo che si dice sempre, ma è vero, ci sono studi che lo dimostrano, che anche se a noi importa poco, perché anche il maiale non capisse nulla, noi, ma certo, comunque bravissima, non è quello il metro di paragone alla dignità dell'individuo, però è vero che un maiale ha, diciamo, abilità e competenze cognitive come un bambino di 3 anni più, esatto, o meno, quindi insomma sono anche questo potrebbe far riflettere chi non sviluppa empatia. Fa riflettere chi si approccia magari per le prime volte a questa cosa, no? La tendenza normale è: più è intelligente più mi interessa, sì, difenderlo, anche se è un approccio, sì, adesso voglio arrivarci, sì, no, con te, col tuo aiuto, perché se è intelligente magari può anche soffrire tanto e quindi evidentemente lo devo proteggere. Però effettivamente noi facciamo un errore di natura antropocentrica, ti ricordi Rosita, esatto, quando parliamo questa cosa? Cioè significa che più una cosa è vicina a noi, più una cosa assomiglia all'essere umano, più tendiamo a proteggerla, non dimenticandoci anche che c'è una dignità e c'è un approccio morale alle cose, etico alle cose, che ti deve far dire: ma questo, anche se è lontanissimo da me, ha necessità, certo, ed è giusto, certo, che faccia la sua vita alle sue condizioni. Esatto. Senti, possiamo dire che voi quindi fate una sorta di formazione per chi avesse voglia in qualche altra regione d'Italia di realizzare una cosa come la vostra, quindi gli insegnate, gli fate capire quali possono essere i passi per trovare uno spazio e per come si dice, creare un altro paradiso. Gestionale, che burocratico, di attivazione, poi tutto quanto. Il discorso che dobbiamo tenere presente, e infatti c'è una battaglia nostra e degli altri pochi santuari in Italia, ci siamo riuniti nella rete dei santuari di animali liberi, siamo pochi, siamo in 6, però vabbè, stiamo facendo una battaglia presso il Ministero, perché attualmente noi stiamo parlando di santuari, ma di fatto il santuario dal punto di vista giuridico non esiste. Noi per lavorare e operare siamo necessariamente equiparati a un allevamento. Un allevamento produttivo, quindi il livello, per farvi capire, di controlli, di osservazione sanitaria, di procedure burocratiche anche assolutamente inutili, perché non ha senso fare dei test assurdi per verificare la bontà dei prodotti in cui i nostri animali potrebbero, certo, essere trasformati, dato che non vengono trasformati, e certo, non verranno trasformati, grazie al cielo. Quindi si perde tempo, c'è stress per gli animali e anche una difficoltà di controllarci in un certo modo sotto questi profili da parte delle autorità, perché non sanno cosa devono controllare, visto che, cioè, è una roba assurda per loro che gli animali rimangano lì e, senti, siano da vita. Allora cerchiamo di diventare, cioè di ottenere un riconoscimento giuridico come santuario, e i nostri animali che diventino non più animali da reddito, ma animali liberi o animali rifugiati. Bellissimo. Sara, usaci come megafono quando dovreste avere delle iniziative importanti. Poi io mi tengo il tuo numero e ti mando il mio, così ti veniamo a trovare. Trovarci, assolutamente, sì, sì, venite a trovarci, e comunque per tutti gli altri www.vitadacani.org. Grazie Sara, a presto. Grazie Sara D'Angelo, ricordiamo Vita da Cani e Porci Comodi. Ci sentiamo tra poco. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Ah, che bello, cioè abbiamo un'intervista che mi piace tanto. Ti piace tanto? Allora, passiamo alle belle notizie, anche alle storie che affascinano, perché ogni volta che la si racconta le persone rimangono lì e dicono, ma che bella sta com'è roba possibile? Qua. Com'è possibile? Allora, tempo fa, tu devi sapere, che in un corso della mia scuola si è presentato uno sbarbatello, che tra poco vi presento. Quanti anni fa? E beh, parliamo del... Aspetta, ti presento. Giuseppe, sei in linea? Sono qui. Ciao, Giovanni. È Giuseppe Luscia. Giuseppe Luscia, ve lo presento, è un ingegnere, ma è anche un educatore cinofilo ed è anche un grande amico. Però, insomma, ci tenevo a raccontare la sua storia perché fa pensare, è buffa e ha tante cose da insegnarci. Allora, questo sbarbatello, che poi nel frattempo siamo cresciuti assieme, quanto tempo fa ci siamo conosciuti noi? Ci siamo conosciuti ormai 11 anni fa. 11 anni fa. Non eravate già più poi così sbarbati, eh? Ma dai, ma smettila. Noi lo siamo ancora, Rosita. Noi lo siamo. Sì, nel cervello sì, siete ancora sbarbatelli, è detto giusto, esatto. Noi abbiamo la stessa età, noi e Giuseppe. Allora, Giuseppe è venuto lì e dice, sai, mi ha colpito una cosa che tu hai scritto sul sito, che dicevi che molta gente è stanca un po' di correre un po' dietro le sue routine lavorative, vuole godersi un po' di più la famiglia, casa, vuole una dimensione più naturale, via dicendo. Insomma, con questa roba qua ci siamo conosciuti io e Giuseppe, è una persona che poi ha riscosso tanta stima da parte di tutti in Think per Dog. Quello ho esordito con questo, perché anche a me piace molto e ho fatto pure un corso con te. Purtroppo per te, purtroppo per te hai dovuto avere in aula la peggiore dei miei clienti. Lo dice sempre, capisci? Però ricordo però ancora, sono passati 11 anni, ricordo ancora molto bene quello che tu dici, quella post che tu avevi messo che raccontava un po' di questa cosa. Sì, perché deve essere successo proprio così, che sai, il caso non esiste, come dice Kung Fu Panda, perché nel momento certo Kung Fu Panda è tra i nostri film preferiti, sì, tra l'altro. Beh, una fonte fantastica Kung Fu Panda, quindi la vera cultura si fa lì. Radioascoltatori, capite bene che Beppe Luscia e Angelo Vaira sono cresciuti con le massime di Kung Fu Panda. Guarda, no, che però... tu non devi farti ingannare dal fatto che quello è un cartone animato, perché come diceva Giuseppe, guarda che la vera cultura si svolge lì. So che la ignori tu come no cara. Non è vero, perché io sono cresciuta con i film di Walt Disney, però per prendervi un po' per il culo dovevo sottolinearla sta cosa, esatto. Se no non faceva ridere, scusa. Però ricordo molto bene che quando lessi quella cosa mi sembrava proprio una cosa che risuonava giusto, quindi è arrivata nel momento giusto. Io probabilmente ero alla ricerca di qualcosa che mi desse qualche stimolo e qualche possibilità di guardare anche al mio lavoro in modo diverso. Ho letto quel post, ho detto a questo lo chiamo e quindi un po'. Ma scusa Beppe, dopo che sei andato quindi poi a fare i corsi di Angelo, qual è stato lo scatto successivo? Allora, lo scatto è stato che dopo qualche anno di prove, di tanta passione che cresceva e di tempo dedicato però nel tempo libero, nel weekend, a un certo punto mi sono detto, ma stai a vedere che forse questa cosa può diventare anche qualcosa di più di una passione, di un passatempo per il fine settimana. E dopo un po' di esperienze, un po' di riflessioni, ci ho provato. E quindi sono andato dal mio capo di allora e gli ho detto, senti, capo di allora, io vorrei... Ah, il lavoro? Sì. Ingegnere anche lui? ingegnere anche lui, e gli ho detto io vorrei liberare almeno la metà del mio tempo per dedicarmi ad altro. E lui mi ha detto, vabbè, ma cosa vai a fare? Vado a occuparmi di cani. E vorrei potervela descrivere. L'espressione? Sì, perché diciamo che l'ambiente, insomma, dove lavoro e dove lavoravo e dove lavoro ancora un po', non è esattamente il posto dove ti aspetti venga accolta così con normalità una proposta di questo tipo. Non la capiscono? Forse non si sono nemmeno posti il problema, perché ho avuto la fortuna di avere comunque una risposta di una persona che magari non capiva, però sufficientemente intelligente. Ha dato spazio. Molto, molto. E quindi ha pensato di assecondare questa cosa e mi sono ritrovato che il mio lavoro principale è diventato fare l'educatore cinofilo. Benissimo. Come si chiama il tuo capo? Sì, il mio capo di allora si chiamava Stefano Bergamin. Allora, grazie ingegnere Stefano, come hai detto? Bergamin, che ha dato questa... Pensa, no? Perché anche se effettivamente non è contemplata questa cosa qua, che uno lasci un posto da ingegnere, o poi si è trasformato, se non mi sbaglio, da dipendente in consulente, quindi qualche volta vi incontrerete Giuseppe Luscio in giro con giacca e cravatta, che va a fare l'ingegnere ancora oggi a Milano, puntualmente, però è diventato un consulente, e questo capo illuminato ha detto... Ma perché io non posso dare a questa persona la possibilità di, evidentemente per le sue corde, innalzare la qualità della vita? E gli ha detto di sì. E si sono trovati bene anche loro, perché sono passati tanti anni e ancora stai collaborando, sì, no? Sì, perché in realtà è successo che poi questa condizione ha creato, per esempio, per me la possibilità di continuare a fare solamente quella parte del lavoro dove, diciamo che mi piace di più, la parte del lavoro di ingegnere che mi piace di più, dove forse anche il mio capo vedeva di potermi sostituire meno facilmente, però ovviamente questa cosa ha messo insieme le esigenze di tutti, quindi mi è rimasta la parte bella del lavoro vecchio e la possibilità di trasformare in lavoro quello che era una passione, che insomma è un po' il sogno di tutti quanti. Che cos'è che ti dà, quanto ti ha cambiato e cosa ti dà a vivere così costantemente il rapporto, per esempio, con i cani? Perché vabbè, tu c'hai dei cani, no? Sì, io ho dei cani, e sai che in attesa di questa telefonata io ci ho un po' anche riflettuto sopra, e il fatto di passare da una passione a un lavoro, ho pensato che tutto sommato si porta dietro anche un po' le difficoltà del lavoro, no? E allora mi dicevo, ma come mai a me questa cosa mi fa stare così meglio? Mm-hmm. E forse è perché tutto sommato io sento di essermi riappropriato del mio tempo, no? Ah, quindi certo. me lo gestisco facendo effettivamente una cosa che mi piace. Poi ovviamente questo è il lavoro più bello del mondo, quindi capita di farsi pagare per andare a fare una passeggiata con il cane, che io trovo straordinario. È un lusso, siamo dei privilegiati. È vero. Hai la possibilità di incontrare anche le persone in una condizione molto particolare, quindi questo è quello che un po' ha mosso tutto, ma più di tutto quello che ti ritrovi è che magari hai qualche problema, qualche casino da risolvere anche in questo lavoro, ma sicuramente sei padrone del tuo tempo. Sai cosa è un po', quando vi chiamano tipo anche Angelo, a te Beppe, per fare, a parte consulenza privata, coaching privato, piuttosto che quando fate anche i corsi, dal di fuori spesso vi ho visto come la gente che vi chiama ha già, secondo me, iniziato un percorso di apertura, in quel senso, perché se no magari uno non va a chiamare il coach e continua, come si dice, in modo incosciente a vivere la propria vita con una relazione magari non così profonda. Ma voi praticamente, il bello del vostro lavoro potrebbe anche essere il fatto che vedete proprio la trasformazione nella persona. Perché uno vi chiama perché al momento sembra che il problema ce l'abbia il cane, ma in realtà la cosa che voi fate è aprire una visione alle persone che vivono con questo cane, in modo che automaticamente loro, capendo delle cose, il cane da solo non ha più quel problema, o sbaglio? Succedono delle cose veramente straordinarie. Pensa che se guardo solamente dei clienti che io ho incontrato in questi anni, conto a decine persone che poi hanno voluto approfondire fino magari a diventare educatori cinofili. Sì, e quindi questo vuol dire che in qualche modo queste persone sono un po' già pronte, no? Ad aprirsi a qualcosa di nuovo, a incontrare in maniera diversa il cane, a vederla in maniera diversa. Sì, forse arrivano da noi che un po' si sono già preparati da soli, quindi sei pronto a vedere le trasformazioni migliori. Anche perché io la cosa che sento più spesso da quando frequento Angelo, che oramai sono 3 anni, amore, devi fare di me una donna seria, e, capisci, questo tergiversa, Beppe, tu che sei uno dei suoi non più cari amici. Non coinvolgere anche Beppe su questa cosa. Cacchio, ma non fai darle qualcosa, corda. Non so io. No comment. Sì, l'allero. Grazie, no Beppe. Comment. Comunque la cosa che mi sento dire più, siete due idioti, che mi sento dire più frequentemente è... Ecco. Non so se Beppe la sente, ma c'è una musica in sottofondo. C'è Ghost. Ecco. Te dagli corda pure, Peter, in regia. Il nostro regista che è molto avanti, che ci mette subito la sigla giusta a seconda di quello che dico io. Non ti preoccupare, amore, a casa c'ho già pronto il vaso di Creta, pronto ad essere modellato. Io pronto a tirartelo dietro se non prendi delle decisioni definitive. Lo dico qui in radiovisione. Comunque, torniamo seri. E io non scherzo, Beppe, anche se sono rassapi, cioè, era veramente dietro tu, i vasi di... Tu non vedi la mia espressione adesso, ma è assolutamente seria. È preoccupata per il suo amico anche, immagino. Molto preoccupata. Esatto. No, dicevo, la cosa che mi sento dire più frequentemente da chi vi conosce è questa: caspita, dopo che ho fatto un corso, anche solo un corso di una giornata, ma che inizia a capire che cosa voi dite, cioè che cos'è realmente una relazione con un cane, mi avete aperto una finestra sul mondo, cioè mi è cambiata la visione del mondo, che è una cosa bellissima, credo, no? Ricominciare a stupirsi in senso bello, positivo. Sai che io credo che alla fine sia quello che succede, è proprio un ricongiungimento con qualcosa che c'hai già, perché anche se siamo finiti ad avere mille difficoltà a incontrare l'altro, inteso anche altro come animale, nel nostro DNA probabilmente le basi perché questa cosa si costruisca ci sono già, perché è passato troppo poco tempo da quando convivevamo con gli animali per dire che siamo cambiati così tanto da non avercelo più, quindi è semplicemente un po' nascosto. E quando incontri queste occasioni, quello che succede è che ti si riaprono gli occhi e dici: oh, adesso sì, sono ritornato un po' vicino alle cose che ritengo importanti. Insomma, sì, perché una delle frasi che mi dicono più spesso è: mi hai riportato a me stesso. Esatto. Senti, tu hai che cosa hai, a parte che fai il consulente ingegnere, il tuo lavoro principale adesso quindi qual è? Faccio l'educatore cinofilo, ho un centro cinofilo in provincia di Novara, che nel tempo ha, diciamo, avvicinato una squadretta mica male di persone. Come che si chiama? Dog Soul. Dog Soul, anima, l'anima del cane. Esatto. Bello. Sta a Borgo Ticino, in provincia di Novara, vicino al Lago Maggiore, e diciamo, ormai siamo parecchi a lavorare, lavoriamo con i cani, lavoriamo su progetti, diciamo, educativi con i bambini, abbiamo delle attività specifiche di educazione, di pedagogia su bambini con alcune caratteristiche particolari, ADHD, quindi poi da lì, insomma, sono successe tante cose, e tante cose onestamente non solo per merito mio, nel senso che poi è la squadra che si è avvicinata, le persone che si sono un po' riconosciute in questo progetto, che l'hanno arricchita, l'hanno fatto diventare quello che è. Che splendore. Tutti assieme. Che splendore. Senti, ma ci vuole un bravo leader, lui non te lo dirà mai, esatto. Lo dirò io a lui. Sì, bella cosa. Siete due bravi leader. Adesso pensa che poi Giuseppe nel frattempo è diventato anche insegnante di chi vuol diventare educatore cinofilo. Lo è ormai da 4 anni e devo dire che gli studenti sono tutti felicissimi di averlo in aula. Pensate. Bene, Beppe, guarda, siamo felicissimi perché hai creato con te adesso. Per ora si dice la mia causa, che oramai c'ha 42 anni. Ma che io ne ho 41, bella, fai 42 bella. A luglio. E tu sei un uomo, giustamente, che ha sua famiglia, sposato con un bambino. No. Allora sì, pirla pure tu, devi sposare pure. Ma io chiedo a te, allora ho chiesto alla persona sbagliata di perorare la mia causa. Adesso chiamo la tua compagna. Vai. Così ti rompe i maroni. Già un collega una volta che sai che cosa ha fatto, ha fotografato Giuseppe con i suoi figli, no? Luca, nostro amico, poi ha scritto, messo un post su Facebook dicendo bisogna darsi da fare. Sai cosa ha risposto la compagna di Beppe? Io sono nata pronta. E vorrei dire che oggi Giuseppe è uno splendido bambino a causa di Luca, gli tiriamo le orecchie. Esatto, Beppe, un abbraccione grande. Grazie Giuseppe Luscia. Ci vediamo presto, ciao. Grazie. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Parliamo dell'indifendibile Justin Bieber. Vorrei sapere proprio le sue fans che cosa pensano. Sì, cosa perché a volte, cioè, non è che perché uno è un personaggio, c'è i soldi, può permettersi tutto. Se tu fai una vita tale che non ti puoi prendere cura di un bambino, di un figlio, come di un animale, allora in quel momento tu quell'animale non lo prendi. Sì, farai canzoni carine, ma sei comunque un coglione. Esatto, detto così alla francese. Praticamente cosa succede? Todd era un esemplare carinissimo di 7 mesi, di un ciu-ciu, ciou-ciou, che era stato adottato da Justin Bieber. Dopo solo 6 mesi da quando Justin Bieber l'aveva preso, capisce che il cane non lo può curare perché viaggiava molto. Ma va. Che questo è in giro per il mondo. Allora cosa fa? Lo lascia a uno dei suoi ballerini, CJ Salvador, che dopo poco tempo che aveva questo cane scopre che il cane aveva anche un problema a camminare e quindi scopre che aveva veramente purtroppo una displasia all'anca che necessitava proprio un intervento perché il cane potesse continuare a avere una vita tranquilla di $8,000. Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho dato questa notizia è: perché non te l'ha dato Justin Bieber con tutti i soldi che ha? Eh beh, certo, ma era il tuo cane, non te ne puoi più occupare, ma almeno se ha bisogno di cure. Per esempio, $8,000 un ballerino non ce li ha così. Justin Bieber sì, esatto. Ma lui non li dà. No! Hanno dovuto fare tutta una colletta resa possibile dalla piattaforma GoFundMe, dove il giovane è riuscito a raccogliere il denaro grazie agli amici, ai parenti, ai fan. Poi ha cercato anche al figlio di Will Smith, che l'ha aiutato addirittura. Poi ha cercato di dire che non era colpa di Justin Bieber, ma no, ma dai, a difendere. Ma Justin Bieber è indifendibile proprio dalle sue azioni, perché tempo fa addirittura ha fatto altre cose. Ma non, certo, ha fatto diverse. Perché quindi dopo questa, che era coglione sufficiente, tutto tondo. Sentiamo. Allora, cosa ha fatto? Aveva preso una scimmietta e se la portava in giro in viaggio. Per andando in Germania, arriva alla frontiera e giustamente quelli della frontiera hanno detto: dove sta il libretto sanitario della scimmietta? Non c'era, e gli hanno sequestrato la scimmietta. Frontiera Germania tedesca. E niente, lui non è più tornato a ritirare la scimmietta. È rimasta là, te lo giuro. Cioè, lo vedi che uno quando è così, io sono senza parole. Poi ultimamente, cioè, a parte che poi ti porti in giro una scimmietta che non dovrebbe portare in giro, cioè non dovresti portarti in giro una scimmietta, ma brutto stronzo. Ma una scimmia ma deve fare una vita completamente diversa. Ma quello si deve arrampicare sugli alberi, deve giocare, deve stare con gli, ma cosa, te la porti in giro e poi cosa fai? Scoprono che non hai documenti e la lasci lì alla frontiera e non la vai più a ritirare. Ma sei un coglione. No, ma non solo, poi si è fatto fotografare con una tigre. Allora, tutto questo per dire una cosa: io sono una fan di Michael Jackson, che ovviamente è scagionato da tutte le cose orrende che gli sono state imputate, di cui era stato accusato. Esatto, non solo lui aveva creato un parco per metterci dentro gli animali liberi, ma quello è un altro paio di maniche. Poi ci possono essere eccessi anche in questo senso, ma se tu avessi scoperto che Michael Jackson mi sarebbe crollato un mito, vero? Sì, ecco, questo volevo dire proprio, cioè... Allora, fan di Justin Bieber, scriveteci a Chiedimi se sono felice @radio24.it, perché io voglio sapere qual è la vostra opinione. No, ma perché, amore, la cosa è questa, cioè tu puoi essere anche un bravo cantante, fai dei bei dischi, però rimani un uomo di merda, perché cioè solo scisse le due cose, no? Come uno può essere un pessimo marito ma un bravo padre, una brava madre, sono due cose completamente separate. Un bravissimo avvocato e un pessimo fratello, esatto. C'è di base, c'è che se tu soprattutto ti ergi e a personaggio etico, attento, adesso Justin Bieber non credo che faccia questo, ma voglio dire, no, già mi sa che si espone... è presentato pure con una pelliccia, vabbè, insomma, che vi devo dire, vabbè, parliamo di pappa, va, che c'ho fame. Parliamo di pappa. piatti e ciotole. Che profumino che starete sentendo adesso nelle vostre case. Noi vi aiutiamo, come sempre vi aiutiamo con la presenza della nostra Mara Di Noia. Ciao Mara. Ciao a tutti. Ciao buona Mara. Domenica. Che ricordiamo ciao. Che lei si mette dietro i fornelli, cucina o e cucina davanti. La stessa cosa per cani, gatti. Ci si mette davanti ai fornelli. E ci si mette davanti, che non ci si mette dietro, vabbè. Non cucina mai, non cucina mai. Quando non ci sono è io è uguale, si può una... dire sia dietro che davanti adesso, va bene in tutte e due le cose. Vabbè, insomma, quindi stavamo dicendo, no, che cucina la stessa cosa e poi la declina nelle varie, nei vari piatti e ciotole, che è il modo esatto. in cui abbiamo intitolato la nostra rubrica. Allora, per oggi che cosa ci proponi? Allora, per oggi vi propongo, visto che non ne abbiamo mai parlato, gli straccetti di seitan al limone, sesamo e mandorle. Limone, allora, sesamo e mandorle. Allora, sì, vi occorrono 500 grammi di seitan al naturale, 4 cucchiai di semi di sesamo, un pizzico di sale, 20 grammi di succo di limone, 2 cucchiai di pane grattugiato, la scorza di mezzo limone, meglio biologica o tritata, 2 cucchiai di olio d'oliva extravergine e 30 grammi di mandorle. Scusa, hai detto quanto di semi di sesamo? 4 cucchiai di semi di sesamo. Cioè, non cucchiaini, cucchiai? Cucchiai da te o cucchiai? Cucchiai. Ammazza, cucchiai. Tanto. Dobbiamo fare una bella crosticina fatta di tutte queste cose buone. Capisci? Senti, allora. Aspetta, ti chiedo, ma il gomasio? Gommasio o due M? Il gomasio con una M, Rosita. Con una M. Aspetta, scusami un attimo, scusami. Rosita, chi aveva ragione? Io. Sempre lei, capisci? Allora, scusami Mara, ma se una ha ragione, sì. Ha ragione anche quando non ha ragione. Certamente. Però il gomasio sì, è un condimento a base di semi di sesamo. Si fa molto velocemente tostando i semi di sesamo in proporzione di 20 cucchiaini con un cucchiaino di sale. E poi si può o frullare brutalmente con un mixer, oppure facendolo fatto bene, pestandolo in un mortaio, come lo si fa, diciamo, quando si fanno le cose bene. Esatto. Allora, in questo caso invece usiamo il seme intero per fare una sorta di crosticina dei nostri straccetti. E quindi dobbiamo tagliare il seitan come appunto fossero degli straccetti di carne, con un coltello tagliando in orizzontale. Metterli in una ciotola col succo di limone e la scorza grattugiata, aggiungere un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e lasciare marinare per 15 minuti. Nel frattempo tostiamo i semi di sesamo in una padella senza olio fino a quando sono dorati, ma vi accorgerete che sono pronti perché ne sentirete il profumo. Ecco, mettere i semi di sesamo e la granella di mandorle tostate nella ciotola, aggiungere il pane grattugiato cercando di far aderire bene questo composto ai nostri straccettini di seitan, che per chi non lo sa hanno l'aspetto proprio di una carne bianca, hanno lo stesso aspetto di una carne buonissima. Magra. Quindi scaldiamo poi in una padella il restante olio di extravergine di oliva, versiamo il seitan con la marinata e cuociamo a fuoco molto molto vivace in modo tale da rosolare bene, e nel giro di 4-5 minuti avremo il nostro piatto pronto. Beh, ecco. In questo caso vale tutto sia per i nostri animali, allora, che per noi? Facciamo una piccola introduzione. Il seitan è un alimento a base di glutine e di grano, quindi okay. Ovviamente per tutti gli esseri viventi non mangiamo seitan tutti i giorni, lo possiamo cucinare una o due volte al mese in assoluta tranquillità, e in assoluta tranquillità anche per i nostri animali domestici. Ovviamente sappiamo ciò che mangiamo, quindi un prodotto a base di glutine tanto quanto un piatto di pasta. Ok. Quindi i celiaci questo non potrebbero mangiarlo? Questo piatto non è adatto al celiaco, non è adatto all'intollerante al glutine, però tutto il resto del mondo sì. E per quanto riguarda il piatto umano, possiamo accompagnarlo a un contorno di verdura, quello che diciamo preferiamo. Per la nostra ciotola invece possiamo aggiungere, in questo caso, visto l'elevato contenuto di glutine, possiamo aggiungere dei fiocchi a base di quinoa o di riso. Mescolando bene, vi assicuro che durano pochissimo nella ciotola. Sì, immagino. Bene Mara, come sempre ci prepari a noi l'acquolina per andare all'ora di pranzo e a tutti quelli che ci stanno ascoltando sicuramente. Allora, se avete già già cucinato, quindi non potete in questo momento fare il piatto che avete appena sentito, vi ricordiamo che se andate sul sito di Radio 24 trovate i podcast, quindi potete andare lì, tirar giù tutta la ricetta e per la prossima, anche domani o domenica prossima, potete fare riferimento a questo. Grazie Mara, noi grazie, ci sentiamo Mara. Sempre domenica prossima. Buona domenica, un abbraccio. Ciao Mara. Ciao, ciao. E ricordatevi, se ci volete scrivere, che noi vi rispondiamo, vi coinvolgiamo qui in radio. Chiedimi se sono felice, @radio24.it. Se volete vi riascoltate dei podcast, delle puntate che vi siete persi. Buon appetito. Buona domenica. Ciao.